Radio Popolare presenta La Caccia, caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ben ritrovati, il programma prevede di parlare di questioni di priorità e della tragica fine della fase orale, del peso delle vocali e delle relazioni simmetriche e l'arte della fuga.